l'Italia è stata assente come Stato perché non ha voluto nemmeno fare il passo di presentarsi come osservatore, come hanno fatto invece altri paesi come la Germania, il Belgio, la Norvegia, anch'essi parte della NATO. L'Italia però era presente da un lato con la società civile, perché Senza Atomica, Rete Pace e Disarmo, che coordinano la campagna Italia Ripensa, ci c'erano, c'era anche l'onorevole Laura Boldrini per la riunione dei parlamentari, la rappresentanza del Parlamento italiano, quindi comunque abbiamo dato il nostro contributo. Contributo a che cosa? A un percorso che coinvolge ormai 70 paesi del mondo, perché proprio durante la conferenza l'Indonesia, che ricordiamolo è il quarto paese al mondo per popolazione, ha annunciato l'adesione e la ratifica del trattato, e che quindi si ingrandisce sempre di più da un lato, ma dall'altro non è solo in un percorso positivo perché sempre più paesi vogliono aderire a questa norma che mette al bando le armi nucleari, ma perché ci sono stati dei passi concreti. Abbiamo ascoltato le comunità colpite, non solo quelle giapponesi dalle bombe di Hiroshima e Nagasaki, ma anche quelle colpite dai test. Abbiamo ascoltato gli scienziati che hanno spiegato come si può fare nel concreto per distruggere gli arsenali attuali. Insomma, c'è un percorso che è concreto ed è politico anche. Per la prima volta, infatti, in un contesto di relazioni internazionali multilaterali, non solo sono state condannate le armi nucleari, ovviamente quello è la base del trattato, ma è stata condannata come problematica pericolosa la dottrina della deterrenza nucleare, e questo tocca da vicino anche ovviamente l'Italia, che basa una parte della sua sicurezza sul fatto che la NATO ha una deterrenza nucleare. La deterrenza nucleare spesso è stata usata come un dogma per sostenere che il possesso di armi nucleari sia quello che garantisce la pace. In realtà non è così. Esatto, è assolutamente una finzione, è una scommessa la deterrenza nucleare, ma una scommessa che si gioca su degli arsenali che ancora oggi potrebbero mettere in ginocchio l'umanità e danno una minaccia esistenziale all'umanità. In realtà lo sappiamo benissimo e lo vediamo in particolare in questi ultimi due anni, in cui due delle maggiori guerre, i maggiori conflitti che sono in corso sono portati avanti da due potenze nucleari, la Russia e Israele, che hanno addirittura minacciato l'utilizzo di queste armi nucleari, e questo solo negli ultimi due anni. Ma da 45 in poi non è che le guerre non ci sono state, ce ne sono state sanguinose, problematiche, il mondo è sempre più in una situazione di insicurezza globale. E allora l'unica cosa che forse hanno garantito le armi nucleari, la deterrenza nucleare, è che non si facesse una guerra nucleare, ma per evitare una guerra nucleare sarebbe ancora più sensato e intelligente eliminare le armi nucleari stesse, perché per il resto in realtà questa dottrina della deterrenza è stata utilizzata soprattutto invece per un'altra cosa che veramente garantiscono le armi nucleari: una militarizzazione dei rapporti, una gerarchizzazione dei rapporti internazionali, per cui chi è potenza nucleare o amico di una potenza nucleare crede di essere in una situazione migliore degli altri, più giusta e più potente degli altri, e quindi in realtà è questo il vero ruolo delle armi nucleari. Certo, poi ci si inventa la dottrina della deterrenza per significare che a qualcosa servono, in realtà no, moltiplicano solo i pericoli derivanti da un continuo impostare le relazioni internazionali sul conflitto e su militarizzazione. La settimana scorsa Greenpeace ha pubblicato un rapporto secondo cui, anche da un punto di vista strettamente economico, investire su scuole e sanità è molto più redditizio che investire su armi. Esatto, in particolare sulle armi nucleari, che ancora ovviamente sono tra i sistemi d'arma più costosi. Sì, questo è un lavoro molto importante a cui abbiamo dato un piccolo contributo, e che va nella linea degli studi che ormai da qualche anno sono portati avanti da diverse istituzioni di ricerca, da associazioni e da campagne. Perché ovviamente, così come prima dicevo, no, che le ricerche su quello che sono stati i problemi, gli errori, le difficoltà degli arsenali nucleari permettono di smentire la favola della deterrenza nucleare, questi studi sulle spese militari permettono di smentire la favola che l'investimento nelle armi deve essere fatto perché è un vantaggio economico, perché è un volano industriale. Non è così. In realtà viene fatto ancora una volta per mantenere potere, per mantenere prevaricazione. E allora noi dobbiamo dire chiaramente che investimenti in altri ambiti non solo garantirebbero ovviamente una diminuzione dei problemi derivanti dalla guerra, perché diminuirebbe l'investimento negli strumenti che la guerra poi utilizza, cioè le armi, ma avrebbero anche un vantaggio dal punto di vista economico, quindi in realtà costruendo più pace, proprio perché se c'è un benessere maggiore, ovviamente deve essere distribuito e non solo concentrato nelle mani di pochi, e anche quello succede, nel senso che l'investimento nelle armi poi alla fine è molto ingiusto da questo punto di vista, mentre invece nell'energia pulita, nella scuola, nella sanità il beneficio è molto più distribuito e quindi porta più uguaglianza, porta più giustizia. È chiaro che questo è un percorso da fare e dobbiamo raccogliere tutte le informazioni possibili. Tra l'altro proprio oggi invece è uscito un nuovo report del CIPRI sulla top 100 dell'industria delle armi e loro dicono chiaramente che in questo momento non si è ancora vista l'ondata di vantaggi, di fatturati dell'industria delle armi, che sicuramente deriverà dalle decisioni politiche prese dopo la guerra in Ucraina, perché appunto siamo di fronte peraltro a un'industria mal costruita dal punto di vista proprio economico, che ha un sacco di problemi di approvvigionamento anche dei materiali, di organizzazione. Perché? Perché non è un'industria efficiente, è un'industria che si basa sulle commesse degli stati, sulle prebende, diciamo, dirette che la politica dà all'industria delle armi solo perché crede che questo possa permettere pace. In realtà quindi non c'è stata ancora questa ondata di guadagni, proprio evidenziando una carenza strutturale dal punto di vista economico. Purtroppo il problema è che i governi invece dell'armamento delle spese militari l'hanno deciso. In anteprima vi posso dire che nel 2024 l'Italia supererà i 10 miliardi di euro per comprare nuove armi, la prima volta che si superano i 10 miliardi, è quasi un raddoppio negli ultimi 5 anni, è impressionante, e quindi questa cosa comporterà proprio che nei prossimi anni si supereranno ampiamente i 600 miliardi di dollari all'anno dell'industria militare. Noi dobbiamo continuare a dire, al contrario, che altri tipi di investimenti sarebbero molto più opportuni.